Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. In una parte recondita della mente, Baby Sachs pensava che se per caso Hall ce l'avesse fatta, a Dio piacendo, sarebbe stato il caso di celebrare. Quando erano arrivati i bambini, senza traccia di Seth, si era sentita impaurita e grata allo stesso tempo. Grata che la parte della famiglia sopravvissuta fossero i suoi nipotini, i primi e gli unici che avesse mai conosciuto, due maschi e una bambina che gattonava già. Ma lei controllò le emozioni per la paura di formulare domande. Che ne era stato di Seth e di Hall? Perché quel ritardo? Perché Seth non era andata con loro? Nessuno poteva farcela da solo. Non tanto perché i cacciatori di schiavi li abbattevano come poiane o li intrappolavano come conigli nella rete, ma perché non era possibile scappare se non si sapeva dove dirigersi. Se non c'era qualcuno a indicare la via, ci si poteva perdere per sempre. Così, quando era arrivata Seth, tutta lacera e ferita, ma con un'altra nipotina tra le braccia, le era venuta la voglia di esultare. Ma poiché ancora non c'era nessuna traccia di Hall e Seth stessa non sapeva che cosa gli fosse successo, Baby Sachs non volle esternare quel grido. Non desiderava compromettere le sue possibilità di salvarsi col ringraziare il cielo troppo presto. Fu Stampede a dare il via al tutto. 20 giorni dopo aver aiutato Seth ad attraversare l'Ohio, passò di lì, vide la bambina e vide la madre. E per qualche ragione personale se ne partì con due secchi per andare in un posto in riva al fiume, di cui lui solo era a conoscenza, dove crescevano delle more così buone e così belle che a mangiarle sembrava d'essere in chiesa. Solo una mora e già ci si sentiva consacrati. Nel pomeriggio tardi ritornò al 124 e depose i due secchi pieni sulla veranda. Quando Baby Sachs vide i vestiti a brandelli, le mani sanguinanti, il volto e il collo lividi, si sedette scoppiando a ridere. Baglar e Howard, la donna con la cuffia e Seth, accorsero per vedere quel che succedeva e scoppiarono a ridere anche loro alla vista di quel vecchio scaltro e insensibile. Agente, pescatore, barcaiolo, battitore, salvatore, spia, se ne stava lì in pieno giorno, vinto infine da due secchi di more. Senza prestar loro la minima attenzione, Stampede prese una mora e la mise in bocca a Denver, la quale allora aveva 3 settimane. Le donne strillarono: «È ancora troppo piccola, Stamp! Le servirà da purga! Le fai venire il mal di stomaco!» Ma gli occhi accesi della bambina e le sue labbra protese fecero sì che ne seguissero l'esempio e uno alla volta assaggiarono quelle more che sapevano di chiesa. Baby Sachs, infine, con una pacca sulle mani, allontanò i bambini dal cesto e spedì Stamp alla pompa per risciacquarsi. Aveva deciso di utilizzare quella frutta per fare qualcosa degno della fatica e dell'amore di quell'uomo. Ecco com'era cominciata. Da una festa per i due occhi accesi di Denver si arrivò a un banchetto per 90 persone. Il 124 risuonò delle loro voci fino a tarda notte. 90 persone che mangiarono così bene e risero così tanto fino ad arrabbiarsi. Si svegliarono il mattino dopo e si ricordarono il pesce persico infarinato e fritto che Stampede gli aveva offerto, infilato in un rametto. Lo sformato di grano con la crema, i bambini stanchi e rimpinzati addormentati sul prato per il troppo mangiare. Era troppo, pensarono. Dove lo prende tutto questo Baby Sachs la santa? Perché lei e i suoi sono sempre al centro di tutto? Come mai lei sa sempre esattamente che cosa fare e quando farlo? Dare consigli, inoltrare messaggi, guarire i malati, nascondere i fuggiaschi, amare, cucinare, cucinare, amare, predicare, cantare, ballare e amare tutti come se fosse compito suo e soltanto suo. Thank you. ora, prendere 2 secchi di more e fare 10, forse 12 torte, avere del tacchino che a momenti bastava per l'intera città, piselli a settembre, crema fresca senza avere nessuna mucca, ghiaccio e zucchero, niente meno, pastella, sformato di pane, pane lievitato e biscotti di pasta frolla, rese tutti gli invitati pazzi di rabbia. Il sentore della loro disapprovazione gravava nell'aria. Baby Sachs se ne accorse il giorno dopo e si domandò che cosa potesse essere mentre faceva bollire i fiocchi di Gran Turco per i nipoti. Più tardi, mentre era in giardino a zappettare il terreno indurito attorno alle radici delle piante di peperoni, lo sentì di nuovo. Alzò il capo e si guardò attorno. Dietro di lei, a qualche decina di metri sulla sinistra, c'era Seth, accovacciata tra le pertiche a sostegno delle piante di fagioli. Le sue spalle apparivano deformate dalla flanella unta di grasso, applicatale per favorire la guarigione della schiena. Accanto a lei, in un cesto, c'era la bambina di 3 settimane. Baby Sachs, la santa, alzò gli occhi. Il cielo era azzurro, limpido. Neppure una leggera traccia di morte nel verde nitido delle foglie. Sentiva il canto degli uccelli e, in lontananza, debolmente, il ruscello più giù, nel prato. Il cagnolino, Here Boy, stava sotterrando le ultime ossa rimaste dalla festa del giorno prima. Dal lato della casa provenivano le voci di Baglar, di Howard e della bambina che gattonava già. Sembrava tutto a posto. Eppure, il sentore di disapprovazione era forte. Appoggiandosi al manico della zappa, Baby Sachs si concentrò. Sapeva ormai da tempo che nessuno pregava per lei. Però quell'avversione che si propagava senza una causa apparente era qualcosa di nuovo. Non si trattava dei bianchi, fin lì ci arrivava. Quindi doveva essere la gente di colore. E poi capì. I suoi amici e i suoi vicini erano arrabbiati con lei perché aveva passato la misura. Aveva dato troppo. Li aveva offesi esagerando. Baby Sachs chiuse gli occhi. Forse avevano ragione. All'improvviso, dietro il sentore di disapprovazione, fiutò qualcos'altro. Qualcosa di scuro che si stava avvicinando. Qualcosa che non riusciva a capire perché nascosto dietro a quell'altro sentore. Socchiuse gli occhi come per vedere di che cosa si trattasse, però tutto quello che riuscì a scorgere furono delle scarpe alte fino alla caviglia, il cui aspetto non le piacque affatto. Sconcertata, eppure incuriosita, ritornò alla sua zappa. Che cosa poteva essere? Qualcosa di scuro che si stava avvicinando. Che cosa poteva ferirla ancora? La notizia della morte di Hall? No, a quella era preparata più di quanto non lo fosse alla vita. Era andato tutto bene finché non era stata presa dall'orgoglio e si era lasciata vincere alla vista della nuora e dei figli di Hall, una delle quali era nata lungo il cammino e aveva deciso di celebrare la cosa con una festa a base di more, al cui confronto la festa di Natale impallidiva. Ora se ne stava nell'orto, a fiutare il sentore di disapprovazione, a sentire che c'era qualcosa di scuro che si stava avvicinando e a intravedere delle scarpe alte fino alla caviglia che non le piacevano per niente, proprio per niente. Quando arrivarono i 4 uomini a cavallo, il maestro, uno dei nipoti, un cacciatore di schiavi e uno sceriffo, la casa di Bluestone Road era talmente silenziosa che pensarono di essere arrivati troppo tardi. 3 di loro smontarono da cavallo, 1 restò in sella, il fucile pronto, gli occhi puntati non sulla casa, ma a destra e a sinistra perché, come era assai probabile, i fuggiaschi avrebbero tentato di scappare. 6 o 7 neri camminavano lungo la strada e si dirigevano verso la casa. 2 ragazzi alla sinistra del cacciatore di schiavi e alcune donne alla sua destra. Con un movimento del fucile lui li fece fermare e questi si bloccarono immediatamente dove erano. Il nipote tornò fuori, dopo essere andato a sbirciare in casa e portandosi un dito alle labbra per zittirli, indicando col pollice il retro, fece capire che quanto cercavano stava dall'altra parte. Allora il cacciatore di schiavi smontò da cavallo e si unì ai compagni. Il maestro e il nipote si portarono a sinistra della casa, lui e lo sceriffo a destra. In mezzo alla catasta della legna, con un'accetta in mano, c'era un vecchio negro pazzo. Si capiva subito che era pazzo perché brontolava e metteva dei suoni bassi, simili a quelli d'un gatto. A una decina di metri di distanza c'era un'altra negra, una donna con un fiore sul cappello. Pazza anche lei, probabilmente, perché anche lei se ne stava lì, impalata, ma agitava le mani a mo' di ventaglio, come se volesse liberarsi da qualche ragnatela. Entrambi, comunque, guardavano nello stesso punto, un capanno. Il nipote avanzò verso il vecchio negro e gli tolse l'accetta di mano. Poi, tutti e quattro, si diressero verso la baracca. Dentro c'erano due ragazzi sanguinanti, in mezzo alla segatura e al terriccio, ai piedi di una negra che con una mano stringeva al seno una piccolina intrisa di sangue, con l'altra teneva una neonata per le caviglie. Non li guardava neppure, si limitava a far oscillare la neonata dirigendola contro le assi delle pareti. Le mancò e ci stava per riprovare una seconda volta, quando nel breve lasso di tempo che occorse agli uomini per guardare quello che c'era da guardare, improvvisamente sbucò fuori il vecchio negro, sempre miagolando, varcò di corsa la soglia, passando dietro a loro e strappò la bambina alla madre e all'arco disegnato da quel dondolio. Fu subito chiaro, soprattutto al maestro, che lì non c'era niente da rivendicare. I tre negretti, ora quattro, perché la donna aveva avuto la bambina che stava aspettando quando era scappata, che loro speravano fossero vivi e in buona salute, quanto bastava per poterli riportare nel Kentucky, riportarli e allevarli come si conveniva perché svolgessero il lavoro di cui Sweet Home aveva un bisogno disperato, non lo erano. Due giacevano nella segatura, con gli occhi spalancati. Una terza sanguinava più non posso, macchiando il vestito di quella più importante, la donna di cui il maestro si andava vantando, quella che secondo lui faceva del buon inchiostro, della minestra maledettamente buona, che gli stirava i colletti proprio come li voleva lui, senza considerare il fatto che poteva ancora figliare per altri 10 anni. Ma ora era impazzita, grazie ai maltrattamenti del nipote, quello che le aveva succhiato il latte mentre suo fratello la teneva ferma, che l'aveva picchiata troppo e le aveva fatto tagliare la corda. Il maestro lo aveva sgridato dicendogli di pensare solo che cosa avrebbe fatto il suo cavallo se l'avesse percosso oltre il dovuto. Ora l'intero gruppo era perduto. Cinque. Poteva rivendicare la bambina, la quale si dimenava tra le braccia del vecchio che miagolava. Ma chi avrebbe badato a lei? Poiché la donna aveva qualcosa di strano. Ora lo stava guardando e se quell'altro nipote avesse visto il suo sguardo avrebbe di sicuro imparato la lezione. Non si potevano maltrattare così impunemente le creature e poi aspettarsi il successo. Perché lo aveva fatto? Per qualche percossa? E che diavolo, anche lui era stato picchiato 1 milione di volte ed era pure bianco. Ma mai le botte lo avevano fatto, cioè mai avrebbe potuto... Perché lo aveva fatto? Era la stessa cosa che aveva chiesto allo sceriffo, il quale se ne stava lì, sorpreso come tutti loro, senza però tremare. Deglutiva a fatica in continuazione. Perché lo ha fatto? Lo sceriffo si voltò, poi disse agli altri tre... Fareste meglio ad andarvene tutti. A quanto pare qui non avete più niente da prendere. Ora tocca a me. Il maestro si batté il cappello contro la coscia e sputò prima di uscire dalla baracca di legno. Il nipote e il cacciatore arretrarono e uscirono assieme a lui. Non guardarono la donna con il fiore sul cappello tra le piante di peperoni e non guardarono le 7 facce o giù di lì che si erano a poco fatte più vicine, nonostante la minaccia del fucile. Di occhi di negri ne avevano già visti abbastanza per il momento. Gli occhi spalancati dei ragazzini negri nella segatura. gli occhi fissi della bambina negra tra le dita intrise di sangue che le serravano il volto, così la testa non sarebbe caduta a terra. Gli occhi della neonata negra, stretti per il pianto tra le braccia del vecchio negro, i cui occhi non erano altro che due schegge puntate a terra, ma i peggiori erano quelli della donna negra, la quale sembrava di non averli affatto, poiché il bianco degli occhi era scomparso e poiché erano neri come la sua pelle, sembrava cieca. Slegarono la corda che univa il cavallo al mulo preso in prestito per riportare a casa la negra. Poi, con il sole che picchiava dritto sulla testa, si allontanarono al trotto, lasciandosi dietro lo sceriffo in mezzo a quel branco di luridi negri, i più schifosi che avessero mai visto. Tutto a testimonianza dei risultati ottenuti da quel po' di cosiddetta libertà, imposta della gente che aveva bisogno di ogni cura e di ogni consiglio possibile per essere tenuta lontana da quella vita da cannibali che sembrava prediligere. Anche lo sceriffo avrebbe voluto arretrare verso l'uscita. Non perché avesse paura, niente affatto. Aveva solo freddo e non voleva toccare niente. La neonata in braccio al vecchio piangeva e la donna con quei suoi occhi senza bianco che guardavano fissi. Avrebbero potuto restare così, immobili, fino a chissà quando, se uno dei bambini che giacevano sul pavimento non avesse sospirato. E mise quel sospiro quasi come se fosse stato immerso in un piacevole sonno profondo e lo sceriffo scattò in azione. «Devo portarti dentro, adesso basta guai. Ne hai fatti quanto basta per tutta la vita. Avanti, vieni via». La donna non si mosse. «Se vieni via senza far storie non c'è bisogno di legarti. Mi hai capito?» Rimase immobile. Lo sceriffo aveva ormai deciso di andarle vicino e di fasciarle in qualche modo quelle mani rosse di sangue, quando intravide dietro di lui un'ombra sulla soglia che lo fece voltare. La negra dal fiore sul cappello era entrata nella baracca. Baby Sachs vide subito chi respirava e chi no e si diresse decisa verso i bambini distesi per terra. Il vecchio si avvicinò alla donna con lo sguardo fisso nel vuoto e le disse: «Seth, prendi questa che ho in braccio e dammi la tua». Lei si voltò e, guardando la bambina che lui teneva in braccio, emise un suono basso, soffocato, come se avesse commesso un errore, come se avesse dimenticato di mettere il sale nel pane o qualcosa del genere. «Io vado fuori e mi faccio mandare un carro», disse lo sceriffo, e raggiunse finalmente la luce del sole. Né Stampede né Baby Sachs riuscirono a convincerla a metter giù la bambina, gattona già. Una volta uscita dalla baracca, nuovamente in casa, continuò imperterrita. Baby Sachs aveva portato dentro i bambini e lavava loro la testa, ne strofinava le mani, ne sollevava le palpebre, sussurrando in continuazione «Scusatemi, scusatemi». Fasciò le ferite e gli fece respirare della canfora, prima di rivolgere la sua attenzione a Seth. Prese dalle braccia di Stampede la bambina che piangeva e se la portò in spalla almeno per un paio di minuti, poi si piazzò di fronte alla madre. «È ora di allattare la più piccola», le disse. Seth fece per prendere la bambina senza lasciare andare l'altra, morta. Baby Sachs fece cenno di no col capo. «Una alla volta», disse, e si fece dare la viva in cambio della morta che portò in soggiorno. Quando ritornò, Seth stava indirizzando un capezzolo insanguinato verso la bocca della bambina. Baby Sachs batté il pugno sul tavolo e urlò «Pulisciti, pulisciti!» A quel punto si misero a lottare. Lottavano come due rivali per il cuore dell'amato. Ognuna cercava di impadronirsi della poppante. Baby Sachs perse, poiché scivolò in una pozza rossa e cadde a terra. Così Denver, insieme col latte della madre, prese anche il sangue della sorella. E fu così che lo sceriffo le trovò al suo ritorno, dopo aver confiscato il carretto a un vicino e aver ordinato a Stamp di mettersi alla guida. Fuori adesso c'era una moltitudine di facce nere che cessarono all'improvviso di mormorare. Stringendo a sé la bambina, Seth passò loro davanti nel silenzio generale, salì sul carretto, il profilo che si stagliava netto contro il cielo azzurro e luminoso, un profilo che li turbò da quanto era nitido. Non teneva forse il capo un po' troppo eretto, la schiena un po' troppo dritta? probabilmente. Lontano, ormai fuori vista, il carretto avanzava cigolando lungo Bluestone Road. Nessuno degli occupanti parlava. Il dondolio del carro aveva fatto addormentare la bambina. Il sole caldo aveva asciugato il vestito di Seth, ora rigido come il rigor mortis. Coming to care.